La Danse des Singes. Un'unica nota accompagnava la danza. Il passo a due di Menakel Rockel. Danzavano bendati. Immersi in immagini di pianeti e stelle. Con quell'unica nota che divenne assordante, fastidiosa. E agitava il sonno di André. Le immagini dei pianeti si dissolsero. La nota divenne un sibilo insopportabile. Menakel e Rockel si tolsero la benda e guardarono André. Sparì tutto. Rimase solo la luna. André si svegliò agitato. Per tutto il giorno ripensò a quel sogno, ma non ne venne a capo. Una cosa però la notò, che tutti i sogni avevano a che fare con la luna. Iniziava a sognare ad ogni luna nuova e terminava con la luna piena. I giorni seguenti passarono normalmente, sereni, senza preoccupazioni, senza imprevisti, come era sempre stata la sua vita, una vita senza intoppi, fortunata. Poi solo pochi giorni dopo, un nuovo sogno. Si trovava davanti ad un grande oblò. Come fosse su un'astronave. Tutto l'universo era davanti ai suoi occhi. Pianeti. Stelle. Tutto di fronte a lui. Una voce alle sue spalle. Insistentemente ripeteva. Tutto quello che vedi è un'illusione. Una voce calma ma assertiva. Definitiva. A cui non era permesso obiettare. André conosceva quella voce. Intuiva anche la presenza alle sue spalle. Era la voce di colui che inspiegabilmente considerava il suo maestro. Una voce bella, ma rigorosa. Insisteva, ferma e severa. Era importante che André ricordasse bene le sue parole. Quello che vedi non esiste. Esiste solo perché il tuo mondo è un inganno. Gli spiegò il perché. André ebbe il privilegio di venire a conoscenza delle leggi dell'universo. Il suo maestro gli spiegò dettagliatamente ogni cosa. Leggi fisiche, matematiche, filosofiche. Che lui capiva perfettamente ma che sentiva di dimenticare all'istante. Tutta quella sapienza svaporava nello stesso istante in cui l'assimilava. Solo pochi giorni dopo. Mai aveva avuto sogni così ravvicinati. Questo lo scombussolò. Questa volta i sogni stavano interferendo sul suo umore. Rimase cupo e pensieroso, solitario. Cominciò ad avere dubbi sulla sua sanità mentale. Era davvero in crisi. La decisione improvvisa di andare a teatro lo rianimò. Decise che quella serata sarebbe stata una svolta, perché era arrivato il momento di non dare più peso a dei sogni, che in fondo erano solo sogni. Malgrado le raffiche vento che in quei giorni allertavano tutta la città, André passò a prendere Silvia con la sua moto. Silvia non ne fu affatto contenta e lo ripeté per tutta la serata, ma André non le dava molto ascolto. Il malumore lo stava imprigionando di nuovo. Comunque lo spettacolo si rivelò molto bello. Si trattava di uno spettacolo di danza contemporanea del coreografo e ballerino Marcel Dubois, stimato come ballerino e coreografo, per le attività di insegnante, molto amato per le sue attività di volontariato. Marcel spendeva molto del suo tempo, e anche dei suoi guadagni, per insegnare danza gratuitamente alle categorie di persone definite disagiate. Combinava regolarmente le tournée con workshop, corsi, e lezioni anche private. Ovunque ce ne fosse stata fatta richiesta. Il titolo dello spettacolo era La Danse des Singes, diviso in tre parti. La prima era corale, con molti ballerini che danzavano all'unisono sul ritmo dei tamburi suonati dal vivo da 10 percussionisti. Molto avvincente, ad André piacque tantissimo. La seconda parte era l'assolo di una ballerina con lunghissimi capelli neri che danzava con una spada d'oro su un'improvvisazione di violino, suonato dal vivo ma con numerosi effetti. Sembra la musica di un altro mondo, disse Silvia. André annuì. La terza parte era un passo a due. Due ballerini uomini, uno dei quali Marcel Dubois, che danzavano su una sola nota, illuminati da proiezioni di galassie e pianeti. Ad intermittenza e irregolare, quasi un disturbo, una voce metallica che ripeteva ossessivamente quello che vedi non esiste. André sobbalzò, ebbe quasi un malore. Silvia gli appoggiò una mano sul viso e gli chiese se stesse male. André non rispose, continuò a seguire la coreografia come in trance. Alla fine della rappresentazione André volle conoscere Marcel Dubois. Silvia invece voleva raggiungere altri amici al ristorante, ma André quella sera proprio non le prestava ascolto e insistette nel voler rimanere finché Marcel non lo avesse ricevuto. Silvia ebbe molta pazienza perché dovettero aspettare un bel po'. Non erano gli unici a volersi complimentare con Marcel. André non voleva solo complimentarsi, voleva incontrarlo. Ma per dirgli cosa? Hai coreografato un mio sogno? No, non ci pensava proprio. Finalmente arrivò il loro turno. La porta del camerino si aprì. Marcel era proprio là davanti, piccolino magro magro, molto più minuto di quanto apparisse sul palco. Il suo sguardo incrociò immediatamente quello di André. Silvie subito si complimentò con lui per le emozioni che le aveva trasmesso. Silvie parlava, ma Marcel guardava André. «So che sei interessato a dare lezioni gratis», disse André avvicinandosi a Marcel. «Sì, sempre volentieri», gli rispose. «Chiamami», prese subito un suo biglietto da visita e glielo porse. «Con calma ne parliamo». André guardò il biglietto da visita. «La luna?» disse indicando la grafica del biglietto. «La luna», annuì Marcel. Usciti dal teatro, Silvia tornò a chiedere ad André se andare al ristorante. Ma lui rispose che l'avrebbe accompagnata ma che sarebbe tornato a casa. «E tutta la sera che mi tratti come fossi un'estranea», sbottò Silvia, «ti parlo e non mi ascolti». André non rispose, era mortificato, Silvia aveva ragione, in effetti erano giorni che la considerava poco più di una dama di compagnia, quasi una presenza decorativa. Non si era mai comportato così con nessuno. Marcel ed André si incontrarono. C'era sempre troppo vento, un vento impetuoso che impediva di camminare, rovesciava i tavoli. André non perse tempo e chiese immediatamente a Marcel cosa aveva ispirato il suo spettacolo. «Tre sogni», rispose immediatamente Marcel. «Lo scorso anno avevo deciso di dedicarmi solo all'insegnamento e abbandonare le tournée. Erano giornate come queste, con un vento insopportabile. Una notte faticai a prendere sonno perché il vento faceva sbattere qualcosa su una finestra non lontano dalla mia camera. Evidentemente questo suono percussivo mi suggestionò tanto che mi addormentai e sognai le tre coreografie che hai visto ieri sera nello stesso ordine in cui le ho messe in scena. L'ultima», interruppe André. ... «Hai sognata anche tu?» André stentò a credere alle sue orecchie. «Sì. Io ho sognato te», disse fermo Marcel. «Intendiamoci, io non sono né un sensitivo né uno che perde tempo in discipline equivoche. Ma da quella notte dopo quei tre sogni ne ho fatti altri dove alcuni personaggi mi chiedevano di portare sul palco quello che avevo sognato e di aspettare il tuo arrivo. I due personaggi che nel sogno danzavano l'ultima coreografia, mi parlarono di te, mi fecero vedere una tua immagine riflessa sull'acqua in una notte di luna, mi dissero che eri stato allievo del principe della luna. Mi dissero che ti avrei riconosciuto e che avrei dovuto chiederti di cantare per delle coreografie da rappresentare in strada». Andrea era ammutolito, smarrito e incuriosito. Principe della Luna non aveva mai sentito prima quello strano titolo, ma senza capire come mai, non gli suonava sconosciuto, istantaneamente lo associò al personaggio e alla voce dei suoi sogni, ed ebbe anche la certezza che fosse sempre lui il destinatario delle lettere che ogni sera istintivamente amava scrivere sin da quando era bambino. «Questo vento porta novità», continuò Marcel. «Indipendentemente da tutto, io sono disponibile a dare lezioni gratuite se vuoi». «Sì», trasalì André come se quelle ultime parole di Marcello avessero fatto tornare sulla terra. «Sì, ti voglio presentare Alan, con lui potrai organizzare dei corsi». Iniziò così l'amicizia tra André e Marcel. André registrò alcune melodie solo con la sua voce, su cui Marcel allestì delle coreografie che da solo rappresentava per le strade e ai festival in giro per il mondo.